Amen. Ci siamo. Oggi continuiamo la nostra adorazione attraverso la parola di Dio che stiamo per leggere insieme. Vi piace? Poi ci ritagliamo un tempo alla fine per dare tutto noi stessi in ginocchio ai piedi della croce di Cristo. Siete con me? Lo vogliamo fare insieme? Siamo d'accordo? Ci piace questa strategia di oggi? Gaia, ti piace? Lo sapevo, zio. Riprendiamo la nostra avventura attraverso il libro degli Atti degli Apostoli. L'ultima volta che ci siamo fermati sugli Atti, avevamo lasciato l'Apostolo Paolo nell'Areopago di Atene. Ve l'ho raccontata questa storia il 27 ottobre del 2019. Cioè, c'è stata una pandemia di mezzo, quindi ritorniamo sugli Atti. Che dite? È una buona idea? E oggi andiamo a leggere Atti, il capitolo 18, la conclusione del secondo viaggio missionario che l'Apostolo fa. E immaginate che arriverà a Corinto, e arriverà nella città di cui noi stiamo leggendo la lettera. Quindi arriverà a Corinto, leggeremo quello che accadrà a Corinto, poi si sposterà nel suo terzo viaggio missionario e scriverà la lettera che noi stiamo leggendo oggi. Quindi vedremo un po' di nomi che abbiamo letto. È bello vedere la Bibbia come si intersecano le cose. Tante volte la leggiamo in maniera meccanica e non ci rendiamo conto che è un'unica storia che è incastrata l'una con l'altra. Quello che avevamo scoperto è che a un certo punto Paolo dice agli ateniesi: ma scusatemi, avete tutto questo Areopago, avete questa statua, questo Dio sconosciuto. Si dice a Bari: ma c'è da aver. E mo ve lo dico io chi è questo Dio che voi non conoscete. È Cristo Gesù. Ed è Lui che dovete adorare. E sapete, il desiderio di Dio per noi, per me e per te, è che la storia della nostra vita sia un altare con su scritto il suo nome, con su scritto il nome di Cristo Gesù, perché solo nel nome di Cristo Gesù quel valore e quella dignità che risiede dentro di te potrà trovare la sua espressione e potrà portarti a scrivere qualcosa di straordinario. Oggi voglio entrare con voi in quel posto segreto dove tu ti vai a rifugiare per essere solo e non essere visto da nessuno. E in quel posto segreto dove tu ti vai a nascondere, oggi insieme dobbiamo far entrare Gesù. Perché abbiamo bisogno che Gesù entri in quel posto. Sapete perché? Perché in Gesù noi siamo figli e figlie di re. In Gesù noi siamo figli e figlie di un Padre eterno che ci desidera suoi. Lui ci vuole suoi. E nel suo desiderio di essere suoi, Lui permette alla storia della nostra vita di entrare a far parte di una storia molto più grande, molto più infinita della nostra storia piccola e limitata che possiamo vivere su questa terra. Lui desidera che noi ci sentiamo di appartenere a Lui. Lui desidera che noi sappiamo che Lui ci ha desiderati suoi. Mi seguite? Qual è questa storia più grande in cui Lui vuole inglobarci e farci entrare a far parte? È quella missione di Dio. E qual era la missione di Dio? La missione di Dio era raggiungere questo mondo, il nostro mondo, corrotto, rotto dall'egoismo, dall'odio, dalla ribellione, dalla disubbidienza, dal peccato, e salvarci. Salvarci non di una salvezza fine a se stessa, ma salvarci di una salvezza che parla del suo desiderio di noi. Una salvezza che parla del suo desiderio di raggiungere le persone intorno a noi e renderci partecipi di questa missione per continuare la sua missione, quella missione che Gesù ha compiuto su quella croce e che ha affidato ai discepoli, dicendo: andate per tutti i popoli e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, per conoscerlo di più. Per noi conoscerlo di più e per farlo conoscere di più. Questo è quello che Dio vuole per noi. Il titolo del messaggio di oggi è Desiderati da Dio. E io dichiaro e confesso che tu non possa uscire da questo posto così come sei entrato e non possa ritornare a fare tutte le cose che stavi facendo prima, di ascoltare tutte le parole che ascolterai oggi, ma che la parola che verrà predicata, che la parola di Dio che leggeremo, possa scendere e risiedere oggi in te e darti quella rivelazione che sei desiderato da Dio. Sei desiderata da Dio. E non lo dico io, e non ci devi credere perché io lo sto dicendo, ma ci devi credere perché quella parola deve entrare dentro di te, deve risiedere, si deve sedere dentro di te, si deve fare spazio dentro di te e deve darti quella certezza e quella consapevolezza che cascasse il mondo, tu sei desiderato da Dio e tu sei stata desiderata da Dio. Sapete, la verità è che non ha importanza quello in cui tu credi, non ha importanza qual è la tua fede, non ha importanza qual è il tuo status, tu puoi essere musulmano, puoi essere buddista, puoi essere ateo, puoi essere quello che ti pare piace, puoi essere ricco, puoi essere povero, puoi essere schiavo, puoi essere libero, giudeo, ebreo, come abbiamo letto in Corinzi. La verità è una, è che ogni essere umano e ognuno di noi ha dentro di sé il bisogno di sentirsi amato. Sapete come ce l'avevano i Corinzi questo bisogno? Così, era un vuoto, era un buco nero, e un buco nero dentro di noi che grida e dice: tu devi sentirti amato, tu devi sentirti di appartenere a qualcuno o a qualcosa, tu devi sentirti approvato, accolto. È un bisogno che abbiamo, tutti ce l'abbiamo, al di là di quello che facciamo vedere esteriormente. Quando appoggi la tua testa sul cuscino, tu lo sai quello che grida da dentro di te. La verità, ognuno di noi ha bisogno di sapere di essere desiderato. Come stai messo con questo vuoto? Come stai messo con il bisogno che hai di sentirti desiderato? Ti senti scartato? Ti senti messa da parte? Ti senti incastrata in un qualcosa che non ti piace? Sapete, per esperienza personale, io so, sulla mia pelle, che per sentirci desiderati siamo disposti a fare qualsiasi cosa. Siamo disposti a fare qualsiasi cosa. E la mia domanda è: in cosa oggi sei ancora incastrato perché vuoi sentirti desiderato? In cosa ora, prima di arrivare qui e quando uscirai da qui, ti senti incastrato perché vuoi sentirti desiderato? Esempio: perché dobbiamo postare delle foto provocanti sui social? Perché lo facciamo? Per sentirci desiderati. Perché se sei una ragazzina adolescente e vai alla scuola media, ti devi a forza fidanzare e dare il primo bacio e vivere tutte le esperienze sessuali che devi vivere, se no non sei desiderata? Perché? Perché lo facciamo? Non lo fate, è una bugia. Perché abbiamo bisogno di sentirci desiderati, approvati dagli altri. Perché se vogliamo comprarci un vestito che dovrebbe coprirci, quando andiamo nel negozio tutto riusciamo a trovare fuorché qualcosa che copra il nostro corpo? E i vestiti che troviamo sono tutti vestiti che non ci coprono e dobbiamo comunque forse comprarli per pensare di poterci coprire quando non ci stiamo coprendo? Perché vogliamo essere desiderati. Perché le donne non vogliono invecchiare e ricorrono alla chirurgia plastica, anche gli uomini, perché devono essere sempre belli e giovani? Perché vogliamo essere desiderati. Perché i maschietti si devono fare belli, che sono stati con tante donne e hanno avuto una vita sessuale molto attiva e quindi possono vantarsene con i loro compagni al bar mentre bevono la birra? Perché vogliono sentirsi desiderati. Perché pensiamo che nei tanti rapporti sessuali che possiamo avere c'è veramente la soddisfazione che possiamo trovare, quando in realtà noi abbiamo letto che il nostro corpo non appartiene a noi ma a nostra moglie. L'ha detto Paolo, L'abbiamo letto questa settimana. E il corpo di nostro marito non appartiene a noi, ma nostra moglie è quello di nostra moglie e nostro marito. Quindi forse lì riusciremo a trovare la vera soddisfazione. Forse ci stiamo illudendo di essere capaci di poter soddisfare, ma non lo siamo. Vi ho spiazzato dicendo queste cose? È la verità. Lo viviamo ogni giorno? Lo vivo solo io? O lo vedete pure voi? Come stiamo messi con questo vuoto? C'era una missione specifica che Paolo doveva compiere arrivando a Corinto ed era aiutare una generazione persa e corrotta ad avere una rivelazione che in Cristo Gesù Dio li stava desiderando per essere suoi. E sapete, Corinto era un porto di mare in tutti i sensi. Non c'era della bella gente lì, che tu li guardi e dici, beh, questi qua saranno dei fedeli, dei credenti, doc. E infatti in 1 Corinzi 6 abbiamo letto che Paolo, dopo essere stato a Corinto, quando gli riscrive la lettera, gli dice nel verso 9, non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. Verso 11, e tali eravate alcuni di voi. Cioè, Dio aveva mandato Paolo a Corinto per fare suoi queste persone. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo Spirito del nostro Dio. C'è una missione che Dio ha affidato a me e a te, ed è aiutare questa generazione, la nostra generazione persa e corrotta, ad avere una rivelazione che in Cristo Gesù Dio li sta desiderando per essere suoi. Ma io e te, come stiamo messi con questo? Questa è una buona domanda che Dio mi ha fatto. Io e te, con questo, come stiamo messi? Siamo stati lavati, siamo stati santificati, siamo stati giustificati, perché noi potevamo essere pure tali, come i Corinzi. Dio non è spaventato, Dio non è preoccupato, Dio non è scandalizzato, Dio non è spiazzato, perché Dio sa che anche se tali eravamo alcuni di noi, siamo stati lavati, siamo stati santificati, siamo stati giustificati. O siamo intrappolati nell'adulterio, o siamo intrappolati nella fornicazione, o siamo intrappolati nell'avarizia, o siamo intrappolati nel mentire, o siamo ancora intrappolati nel compiacere gli altri. Non possiamo dire di no, perché se diciamo di no, gli altri non ci desidereranno più. Come siamo messi qua? Dal verso 1 degli Atti, di Atti al capitolo 18, leggiamo che dopo questi fatti Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. E qui trovò un ebreo di nome Aquila, oriundo del Ponto, giunto di recente dall'Italia insieme con sua moglie Priscilla, perché Claudio aveva ordinato a tutti i giudei di lasciare Roma. Egli si unì a loro, essendo del medesimo mestiere, andò ad abitare e a lavorare con loro. Infatti, di mestiere, erano fabbricanti di tende. Ecco perché poi nella sua prima lettera ai Corinzi, Paolo si giustifica del suo discepolato dicendo: io non sono mai stato un peso per voi, non vi ho mai chiesto dei soldi, Corinzi, per potervi predicare il Vangelo. Tant'è vero che io da lunedì al venerdì lavoravo e facevo le tende e il sabato andavo in chiesa, venivo nella sinagoga per evangelizzare e per parlarvi. Ma ogni sabato insegnava nella sinagoga e persuadeva giudei e greci. Quando poi Sila e Timoteo giunsero dalla Macedonia, Paolo si dedicò completamente alla parola, testimoniando ai giudei che Gesù era il Cristo. Ma poiché essi facevano opposizione e lo insultavano, gli scosse le sue vesti e disse loro: «Il vostro sangue ricada sul vostro capo, io ne sono netto, da ora in poi andrò dai pagani». E uscito di là, entrò in casa di un tale chiamato Tizio Giusto, che temeva Dio e aveva la casa attigua alla sinagoga. Ma Crispo, capo della sinagoga, credette del Signore insieme a tutta la sua famiglia, e molti corinzi, udendo, credevano e venivano battezzati. Bellissimo qui vedere che poi sono Sila e Timoteo che con un'offerta raccolta dalla Chiesa della Macedonia portano questi soldi a Paolo che gli permettono di non dover più lavorare da lunedì al venerdì, ma dedicarsi ogni giorno alla predicazione della parola, e questo porta a un frutto in cui tutta la città viene convertita e si converte, anche il capo della sinagoga, cioè il sacerdote degli ebrei che era lì e che li avevano cacciati e che li avevano portati ad andare a casa del Tizio Giusto. Bello il nome, Tizio Giusto, eh? Una notte, sentite qui al verso 9, il Signore disse in visione a Paolo: «Non temere, ma continua a parlare e non tacere, perché io sono con te e nessuno ti metterà le mani addosso per farti del male, perché io ho un popolo numeroso in questa città». In questa città completamente corrotta e schifosa, dove se io e te fossimo arrivati forse ci saremmo scandalizzati, Dio aveva scelto un popolo numeroso, perché il desiderio di Dio è per ognuno. È per ognuno. Sapete, se penso alla mia vita, la mia difficoltà più grande è stata quella di sentirmi solo. Mi sono forse sempre sentito solo e mi sono sempre sentito non desiderato. E sai, tu riesci a coprirlo bene e a nasconderlo bene, però il non sentirmi desiderato mi ha portato a fare tante scelte sbagliate che mi hanno fatto tanto male e mi hanno procurato tante ferite. Fino al punto in cui poi sapevo dentro di me che Gesù mi amava. E sapete perché lo sapevo? Perché i miei genitori me l'avevano insegnato. Apro parentesi. Il mio arrivo è stato un arrivo inaspettato. È stato un arrivo improvviso. I miei genitori erano fidanzati, erano molto giovani. E io ero arrivato, inatteso, inaspettato. E loro hanno incontrato Gesù e hanno gridato a Lui. E Dio gli ha fatto capire che quello che era inaspettato per tutti, forse era desiderato da Lui. E con il tempo, quando io mi sono riavvicinato a Dio, ho dovuto far scendere quella verità che Lui mi aveva desiderato prima che i miei genitori potessero desiderarmi, e che Lui mi conosceva prima che le persone intorno a me potessero conoscermi, e che non è stato un incidente di percorso, non è stato un cambio di programma, ma è stato un desiderio di Dio. E quando tu non ti senti desiderato e ti senti solo, e butti la tua vita da tutte le parti affinché da qualche parte qualcosa la recuperi, far arrivare quel desiderio che tu sai che Dio ha per te da qui a farlo scendere qui, c'è un prezzo che devi pagare, ti devi perdonare per tutte le cose che hai fatto. E perdonarti è dura. Come ti fai a perdonare? Come posso perdonare quello che io ho scelto di fare sbagliando? Puoi essere lavato. Puoi essere santificato, puoi essere giustificato. E tu oggi mi puoi dire quello che vuoi, mi puoi dire le cose più brutte di questo mondo, a me non interessa. Lo sai perché? Non perché non mi interessa quello che tu dici, ma perché mi interessa quello che Dio mi ha detto. E Lui mi ha detto che io sono stato desiderato da Lui. Prima che tutti quanti potessero sapere che io ci sarei stato e che io sarei nato. Sei desiderato da Dio. Non puoi tornartene a fare quello che stavi facendo prima senza questa verità dentro di te oggi. Sono determinato e sono intenzionato ad entrare in quella stanza dove ti nascondi sempre e a far entrare questa verità. E non mi fermerò davanti a niente. Sei desiderata. E quando sai di essere desiderato e sai di essere desiderata, quello che è il tuo vuoto, quello che è il tuo esserti buttato in ogni parte per recuperare qualcosa, si trasforma nella croce di Gesù. Perché la verità è che solo Gesù ti può desiderare. Solo Lui ti ha desiderato, lasciandoti libero e non schiavo e non intrappolato e non imprigionato. Non andare in giro sentendoti desiderato a giorni alterni. Non hai bisogno del peccato in cui sei intrappolato per sentirti desiderato. Non ne hai bisogno. Hai la croce di Gesù. Non hai bisogno di compiacere gli altri per sentirti desiderato. Queste possono essere belle parole che tu senti sempre dire, ma queste belle parole le devi fare entrare dentro di te. Perché se quelle belle parole non vanno a colmare quel vuoto che tu hai e non lo fanno diventare a forma del sangue e della croce di Gesù Cristo, saranno belle parole che io ho detto e il vento se le sarà portate via. Non hai bisogno di fare la vittima per sentirti desiderato. E questo mi fa riflettere, perché io poi, Dio mi ha detto, ma come puoi, Antonio, tu continuare la missione che io ti ho affidato e permettere al mio desiderio di raggiungere le persone intorno a te se tu per primo non vivi appieno il fatto che tu sei desiderato da me? Non so se ha senso questa cosa. Cioè, come possiamo noi mettere mano a quello che Gesù ci chiede di mettere mano e dire alle persone Gesù ti ama se noi per primi non sappiamo fino in fondo che Gesù ci ama perché siamo intrappolati e perché scendiamo a compromessi e perché non abbiamo fatto scendere dentro di noi quella rivelazione? E sapete, Gesù ce l'ha detto. Il primo comandamento è ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, a seconda del Vangelo dove lo leggiamo. E il secondo comandamento, ama il tuo prossimo come? Come te stesso. E noi lo tralasciamo tante volte. Come ti stai amando? Se tu sei arrabbiato con te stesso, tu sarai arrabbiato con gli altri. Se tu sei deluso da te stesso, tu sarai deluso dagli altri. Se tu non ti sei perdonato, tu non potrai perdonare gli altri. Perché come puoi fare qualcosa agli altri se tu non la provi sulla tua pelle? Se il figlio di Dio, che era sul trono, è dovuto scendere e provare sulla sua pelle il peccato, sulla croce, senza averlo commesso, morire, buttare il sangue e risorgere, buttare proprio il sangue nel vero senso della parola, e risorgere, se lui l'ha dovuto provare sulla sua pelle per renderci liberi, e noi forse dobbiamo almeno provare sulla nostra pelle che ci amiamo come Dio ci ama, che siamo perdonati come Lui ci ha perdonato. E quindi mi sono chiesto, Antonio, come ti stai amando? E voglio farlo a te, come ti stai amando? Ti ami come Gesù ti ama? Vivi la tua vita come risultato dell'amore che Gesù ha per te. Questa storia che stai scrivendo attraverso della tua vita, che storia è? È una storia che parla dell'essere intrappolato nel peccato dove sei intrappolato per sentirti desiderato? Sapete, l'abbiamo letto questa settimana in 1 Corinzi 13, che l'amore è paziente, l'amore è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si gonfia, non si inasprisce, non addebita il male. L'amore non gode dell'ingiustizia, ma l'amore gioisce con la verità. L'amore soffre ogni cosa. L'amore crede ogni cosa. L'amore spera ogni cosa. L'amore sopporta ogni cosa. Non l'ho detto io, è la parola di Dio. Se non è questo l'amore che tu stai vivendo, allora non andrai lontano da Dio. E sai perché? Perché ti fermerai e rimarrai intrappolato nelle situazioni e nelle circostanze in cui ti ritrovi. E non ci sto dicendo questo per condannarci e farci appesantire, ma ci sto dicendo questo perché io e te abbiamo bisogno di chiudere i nostri occhi, fare un bel respiro e permettere a questo amore, che è pazzo questo amore. Per questo Paolo ai Corinzi dice la pazzia della predicazione, perché è follia sopportare ogni cosa. Come puoi sopportare ogni cosa? Vedi, mi si alza pure la voce. Non puoi sopportare ogni cosa. Come puoi soffrire ogni cosa? Non lo puoi fare, non lo puoi fare. È pazzia, ma è l'amore che Gesù ha sparso per me e per te. È quell'amore in cui io e tu dobbiamo essere lavati, dobbiamo essere santificati e dobbiamo essere giustificati. E Gesù ce l'ha detto: venite a me, voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io darò riposo alle anime vostre. Lasciate quel giogo che vi opprime, che vi dà l'illusione che siete desiderati, è una bugia, e prendete su di me il mio giogo, perché il mio giogo ti farà uscire tante lacrime, ma è leggero, è il vero giogo di cui tu hai bisogno. Sapete, la cosa più incredibile è che Dio ha scelto oggi di manifestare il suo desiderio di raggiungere ognuno attraverso di me e attraverso di te, attraverso di noi, che siamo la sua Chiesa. È stato entrando nella nostra Chiesa 40 anni fa che i miei genitori hanno potuto scoprire che c'era un Dio che li amava. E forse Dio avrebbe trovato un'altra strada per permettere alla mia vita di arrivare su questa terra, ma si è servito della Chiesa per poter essere quella manifestazione di un popolo che ama, che accoglie e che ti fa sentire che Dio ti desidera suo. Vi voglio leggere due testimonianze di quello che è accaduto come risultato di Dono perché amo dell'anno scorso. Durante la pandemia, con la squadra e con il pastore, abbiamo deciso di sostenere delle famiglie che erano nel bisogno. E questi sono i messaggi che hanno inviato, ve li voglio leggere. Sapete, essere desiderati da Dio e sapere di essere desiderati da Dio è portare le persone intorno a noi a sapere che sono desiderate da Dio, è qualcosa anche di molto pratico. E a volte passa anche per i nostri soldi. Carissimo pastore Mirko, non ho parole per ringraziare te e la Chiesa per il dono che mi è stato consegnato. Mentirei se ti dicessi che non ne avevo bisogno. Nel tempo ho imparato ad affidarmi direttamente al Signore per ogni necessità e oggi, ancora una volta, Lui mi ha dimostrato di saper andare oltre le mie aspettative, ma anche di rendere capace la Chiesa nella prontezza dell'Evangelo, che per me si è espresso anche con questo gesto. Quindi sono profondamente riconoscente a Dio e a voi per questo prezioso dono. Egli vi dia secondo le ricchezze della sua gloria, Efesini 3,16. Grazie, tanti cuoricini. Luci! Non ho letto prima. Tante faccine che piangono. Ma perché? Non posso mandare un vocale in questo momento perché non riuscirei a parlare. E credo che anche dire grazie sia riduttivo. Ma davvero non posso non dirlo dal profondo del nostro cuore e ringraziamo ancora di più Dio per avervi e far parte di una famiglia enorme. La mano di Dio sulla nostra famiglia in questo periodo la stiamo sentendo tanto e la sua benedizione sta sovrabbondando. Fai da tramite a tutta la squadra pastorale e al pastore, vi vorremmo abbracciare uno a uno e appena sarà possibile lo faremo. E sarà possibile. Viviamo dono perché amo a partire da domenica prossima, consapevoli che siamo desiderati da Dio. E che anche quello che possiamo dare con i nostri soldi è funzionale a permettere a una generazione persa e perduta di sentirsi desiderata. Perché forse qualcuno griderà, come queste persone stavano gridando. E il nostro dare ha permesso a Dio di dare loro rivelazione che Lui è interessato a loro, che Lui li desidera, non a chiacchiere, ma in dimostrazione di potenza. E infatti c'è una canzone che sto ascoltando nell'ultimo periodo e il testo di questa canzone tradotto dice questo, voglio leggervelo. C'è semplicità e umiltà nel modo in cui tu, Gesù, mi ami. C'è onestà e purezza. Dio, tu lo rendi semplice. Nessuna parola o formula speciale potrebbe mai conquistare questo amore, perché il tuo amore è immeritato. E anche quando non riesco a vedere chiaramente, in qualche modo ti rendi accessibile, perché il tuo amore non è complicato. Mi ami così come sono. Ecco perché sono qui davanti a te completamente arreso, con le braccia aperte e il cuore aperto. Gesù, sia fatta la tua volontà in me. Gesù, fatti strada dentro di me. E continua con un'altra strofa e dice: tu vedi la mia fragilità, la mia solitudine, non vi dico io in questi mesi, fiumi di lacrime. Conosci i miei segreti. Tant'è vero che ogni tanto mi ritiro, mia moglie dice: ma che è successo? Tutto a posto, sono stato con Gesù. Conosci i miei pensieri, i miei segreti più profondi, le mie guerre nascoste. Dio, tu vedi attraverso di me. E anche quando la mia mente si complica in mille pensieri, tu continui ad amarmi semplicemente perché il tuo amore non è complicato. Mi ami così come sono, ecco perché sono qui davanti a te, con le braccia aperte, con il cuore aperto. Gesù, sia fatta la tua volontà in me. Gesù, fatti strada dentro di me. Potrei cantare ancora e ancora che ti amo, ma non basterebbe. Perché come potrei mai dirti abbastanza che io ti amo? Sapete che cosa è successo negli ultimi 2 anni? Che nonostante tutto quello che vi ho appena predicato, ho dubitato che Lui mi aveva desiderato, perché la vita viene e non ti avvisa. E io ho dubitato, ho detto, forse non era così come ho pensato in tutti questi anni. Ma il suo amore non è complicato. E ho dovuto ridire, ok, ho sbagliato. Come l'aurora ritornerò da te e tu mi accoglierai e tu mi abbraccerai e tu mi rialzerai. Alziamoci in piedi. Invito anche la band ad entrare. Intenzionalmente, oggi abbiamo lasciato lo spazio di adorazione alla fine. Abbiamo 10 minuti davanti a noi, dove non andremo a ripetere un coro per poi andarcene a casa, ma dove andremo ad adorare Dio e stiamo per dichiarare che il suo sangue ci ha lavato e ci ha reso bianchi come la neve. E questo è scritto in Isaia. E quando io l'ho letto ad uno dei miei primi ritiri, che nonostante i miei peccati potessero essere rossi come lo scarlatto, lui mi avrebbe reso bianco come la neve, si è rotto qualcosa. E io vorrei che noi qui a casa ci dimenticassimo delle persone intorno a noi. Sei nel tuo posto segreto, dove non hai mai fatto entrare Gesù, dove sei intrappolato perché hai bisogno di sentirti desiderato. Ed è in quel posto che per il sangue di Gesù tu puoi far entrare la presenza di Dio. Chiudiamo i nostri occhi. E se ci sentiamo a nostro agio, alziamo le nostre mani al cielo. Se abbiamo la possibilità di parlare nuove lingue, iniziamo a parlare nuove lingue. Entriamo alla presenza di Dio. Non serve che io faccia una preghiera per te. Quando il mio sentirmi desiderato da parte di Dio è sceso dalla mia mente nel mio cuore, nessuno ha pregato per me. L'ho fatto io. Gliel'ho detto io. L'ho pianto io. L'ho dichiarato io. Perché sono io che lo dovevo fare. Nessuno lo può fare per te. Lo puoi fare solo tu per te stesso. E ora è il momento di farlo. Confessiamo queste parole come una preghiera e come una dichiarazione sulla nostra vita. Forza Chiesa.